Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Rivedo dopo un'infinità di tempo la ragazza con la chitarra. La rivedo completamente cambiata. Un tailleur professionale, una cartella da donna manager, completamente diversa, un'altra luce negli occhi. Chissà cosa c'è dietro quella luce. Quanto tempo? Quanto tempo? Noi stavamo sempre negli stessi posti, io viaggio sempre sulle stesse carrozze. Il tempo implacabile lascia segni indelebili sulla mia figura e in parte vedo anche sulla tua. Ma no, perché dici così? Dai, tanto che non ci vediamo, dimmi qualcosa di più carino. Si vede che fai una vita sedentaria, però dimmi com'è cambiata quindi la tua vita. Come sedentaria? No, sì. È che viaggio su altri treni, altre destinazioni. Non siamo stati sincronizzati, altro che, tutt'altro che sedentaria direi. Una vita molto cambiata. Senti, io ti ho lasciato l'ultimo viaggio che ti occupavi di un'agenzia di viaggi. Mi sembra che importavi personaggi dall'Africa oppure mandavi signore in Africa, non mi ricordo bene, qualcosa del genere. Sì, diciamo, sono cose che non so se si possono dire, se sono completamente legali, però... Ci organizzavi i sexy tour di signore verso i paesi africani. Sì, beh, qualcosa del genere, poi anche tu insomma collaboravi con me, quindi mi fa strano che adesso tu non ti ricordi bene di cosa. No, veramente, adesso questo lo dico per facezia, chiaramente non è vero, ma ricordami che facevi, non mi ricordo. C'era comunque di mezzo i viaggi, adesso sto scherzando. Allora, noi c'eravamo, sentici, eravamo io di ritorno da un viaggio così e ero appena stata in Africa, sì. Sono passati 2 anni, quasi 2 anni. Pensa come sarebbe più difficile oggi continuare a fare quel tipo di lavoro, oggi, in questo momento. In 2 anni quante cose sono cambiate? Un'infinità. Sono cambiate tantissime, tantissime cose e anche la tipologia di viaggi che faccio. Insomma, in Africa non ci sono più tornata, però ho viaggiato tanto per l'Italia perché ho cambiato lavoro e... E che fai adesso? Adesso sono la coordinatrice culturale di un'università qua a Roma e con i ragazzi americani andiamo, andiamo in giro per l'Italia, insomma organizzo tutte le attività culturali, quindi andiamo ad esplorare, non so, i luoghi più conosciuti ma anche quelli non, andiamo a stare in contatto con le persone dei posti, facciamo dei laboratori di ceramica, tante belle cioè, cose. Ti danno dei gruppetti di studenti americani e tu li porti in giro a vedere l'Italia, questo è il... Sulle sì, i gruppetti si formano, io mi ricordo ancora all'inizio del mio lavoro, dicevo madonna mia, devo organizzare, poi vedevo un po' le cose classiche, no, che si possono offrire, quindi che fai le cucine, che ne so, le cooking class, queste cose qui, e dicevo ma dai, inventiamoci qualcosa che vada un po' oltre a tutto questo. Poi le cooking class... Inventata? E che mi sono inventata? Niente, stai lì e passi giorni e giorni a fare gli itinerari, e poi voglio dire, la precisione non era di casa mia, però era di casa loro e quindi dovevo essere molto precisa a dire, che ne so, 8 partenza, meeting point qui, 8 e 5, vi chiamo per nome, 8 e 10 saliamo tutti Carmen, sul ma così turma. Normalmente si fa, non è che sfogliarsi. Lo so, però io sarei più abituata. Tu eri abituata a vivere in una casa, dormivi con un cane, facevi quello che volevi, ti alzavi quando volevi. Questa è la vita disciplinata, scusa. Ero più abituata quando andavi in piazza, 8, vabbè. In teoria mi devo alzare, 8:30 mi dovrei alzare, 9 mi sono alzata. Vabbè, questa è la vita della figlia di mamma che non c'ha, che non c'ha impegni, adesso è cambiato, sei entrata benvenuta nel mondo degli adulti. Con tutto il tuo riassumere, il tuo cristiere, tutto. Senti, il cane, scusa, che fine ha fatto nel frattempo? Il cane sta bene, non viaggia con noi perché sarebbe un po' difficile. Però scusa, ma quando bene, tu vai in giro per l'Italia... Per l'Italia con i ragazzi americani, mica ti vuoi portare il sacco di pulci dietro, fammi capire, dove lo lasci? Guarda, in teoria è diventata anche la mascotte una volta perché i ragazzi l'hanno vista e che carina. Quindi imponi il cane anche ai ragazzi americani. Io mi ricordo che tu dicesti dimenticati il cane, dimenticati tutto questo, le passeggiate, le cose. In realtà non ce le siamo dimenticate, sono solo un po' ristrette, diciamo, molto molto scusa, ristrette. Scusa, se lavori e vai in giro per l'Italia, il cane non è che te lo porti dietro. No, quindi vedi, l'hai dimenticato certe parte. Cose, certo, mi sono inventata babysitter improbabili per il cane, l'ho lasciata da sola un giorno intero per 12 ore, adesso qualcuno mi ammazzerà. E lei tutto non se ne sono tornata, allora sono uscita, dormiva. Aspetta, mi raccomando, sei buona. Sono tornata dopo 12 ore, ovviamente ho passato il cibo e tutto. Dormiva. Sì, anche stracazzato dappertutto, però dormiva. Non è vero, non ha fatto niente, assolutamente niente. Così. Senti, ci sono altre presenze vitali in quelle quattro mura, oltre a un cane addormentato? C'è qualcosa di nuovo che devi raccontarmi? Ci sono io e tutte le nuove parti di me che abbiamo conosciuto e parliamo sempre, e poi ci sta il cane, parliamo sempre anche con il cane, poi ci sta il computer, ci sta il libro, ci sono tante cose. Esperienza vitale, cioè nessun umano va con la casta soglia. Queste sono esperienze vitali, dai, non dirmi che anche tu non la pensi così, su via. No, capire, no, secondo me, ricordo esattamente, tu sei uscita da una situazione, diciamo, di familiare, felice, contenta, da brava ragazza, tu hai fatto la tua valigetta di cartone con dentro il cane e sei andata a vivere da sola, è stato un momento importante, adesso c'hai anche un bel lavoro nuovo, una tua stabilità. E ora che cominci a pensare anche al tuo futuro, penso, no? Ma sì, ma c'è, guarda, il mio futuro lo vedo bello, radioso e spazioso soprattutto. In quella casettina non entra mai nessuno oltre il cagnolino e te. Ma guarda, c'è una canzone molto bella di una mia cantante, di una delle mie cantanti. Girarci intorno, hai capito che voglio sapere. Questa canzone si chiama Non so dove metterti. Cioè lei dice... Non so dove metterlo, vabbè. No, non so dove metterti. Dice, la mia casa è tanto spaziosa, però è piena di vestiti, piena di scarpe, di sedie, di cibo. Cioè, io non so dove metterti, vorresti venire a vivere con me? Io non so proprio dove metterti, sai, ripensiamoci a primavera, ripensiamoci a questa estate. Sì, dimmi che anche una persona che dovrebbe venire comunque a condividere con te degli spazi in casa... C'è questa sorta di forca caudina che deve passare per i peli del cane, per lo sbavazzo del cane, per la ciotola del cane. Ti risponderò così. C'è un'altra canzone di un altro cantante che dice: se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Ah, ma posso dormire con già? No, vuoi dormire con il cane? Ecco, perfetto, ha capito tutto quel cantante ed è così. Bisogna prima passare per il cane e poi il cane fa da apripista per tutto quello che c'è dietro il cane. Mi spiace, così. Vabbè, questo è l'altro. È il destino di chi vuole amare una canara. È la stessa cosa, il cane prima, no, c'è il cane, poi c'è il resto del mondo. No, ma non faccio niente di strano. Io mica, non è che questo vita. ti voglio prendere delle distanze, censurarti, no, dire che hai sbagliato. Ti sei già indietreggiato, lo vedo che ti sei già no, ma basta capirlo. Ognuno è artefice del tuo destino, ma fa delle scelte nella vita. Si trova una bifurcazione, dice voglio una vita appagante, sentimentale, carnale, allora, relazionale, aspetta, o voglio stare con un cane? Ho scelto stare con un cane, che male c'è? Allora, vedi, tu con i tuoi riassunti da Cristo In realtà sono sintesi, non sono bellissimo, no, è un bellissimo alibi cane, perché molte volte tipo scivo fuori da situazioni nelle quali tu non vorresti stare. A parte che il mio cane non è mai stato un cane da passeggio, di quelli che ti vado in giro col cane, sai, rimorchio, no. Lei Beh, rischia, oddio, rischia. Per essere a passeggio dovrebbe essere anche un po' più decente. Che cosa? Ma no, dici pure, scusa, non ti ho sentito, aspetta, no, mi avvicino un po'. È quello che si diceva nelle mie contrade lontane, selvagge, sì, e crudeli, anni... un cane da pagliaio. No, era troppo giovane, doveva ancora nascere, non le so queste cose, mi dispiace. Dei bei cani simpatici, gagliardi, ma servivano per fare la guardia ai pagliai. Non erano cani da trastullo, da passatempo. Non so a cosa tu ti stia riferendo, però mi fa piacere che il cane sia il protagonista. Vabbè, dai, sto scherzando, dai. Parlo del cane, stai contenta? Parlo del cane per non parlare di te. Capito che ti crea qualche imbarazzo entrare nella sfera personale, quindi parliamo del cane. Povera anima innocente, non ha colpa lui. No, ma se vuoi anche parlare di me, non ti preoccupare. I see another side, maybe just another light that shines. And I look over now through the door, and I still belong to no one else. Maybe I hold you to blame for all the reasons that you left. And close my eyes. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Una webcam puntata sul professore e gli studenti universitari seguono le lezioni da casa. E addio vecchio pendei affollati, quest'anno si fanno con le visite virtuali. E ancora ciao ciao, aule gremite di genitori e parenti in lacrime per la discussione della tesi, che ora si fa davanti ad un PC dal divano del salotto. Didattica a distanza ai tempi del coronavirus e atenei chiusi. Dopo il ciclo di podcast Diverso il futuro e oltre dedicato alla scuola, inauguriamo una serie di puntate dedicate all'università, che ha dovuto reinventarsi. Sono Maria Piera Ceci e giovedì 9 aprile a Verso il futuro e oltre ne parliamo con Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e presidente della Conferenza dei Rettori, naturalmente su radio24.it. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. dimmi, dimmi, cosa vuoi sapere? Anima no. viva qua dentro, oltre al cibo, sì. il cane, le scarpe. C'è stata anima. No, pensavo che questo cambio radicale di vita, da, diciamo, ragazza in pigiamata con papà e mamma dentro casa, a cui che pensano tutto loro, coccolate tutto. Ma... finalmente una selvaggia single con possibilità ampissima di conoscere il mondo, che qualcosa fosse cambiato, ma vedo che non è cambiato molto. Ma io forse credo che tu ti ricordi un'altra persona, perché oddio, diciamo questo sente, però la situazione idilliaca proprio di casa, mamma, papà. Che stavi no, tanto bene, contenta. Ma non te le ricordi, super edificate, quelle cose? Per carità, sì, ma facciano parte, diciamo, faccio parte della sitcom certo, quotidiana. Sitcom dai. Familiare, esatto, certamente. No, adesso c'è un'altra sitcom e ci sono anche tanti incontri. Guarda, perché tu mi fai l'effetto contrario, lo vedi? Io avevo tante cose da raccontarti. E dimmene una. Incontro Gianluca sul treno, gli dico, Gianluca, lo sai che è successo a Capri quella volta? Che invece, no, io ti e parlo con te mi censuro da sola perché mi fai dire nervoso, mi fai venire. No, vabbè, cosa è successo a Capri? Dai, sentiamo la storia di Capri, interessante. Cosa è successo a Capri? La regina di roccia, no? Come la definiva Neruda. E sì. Capri è bellissimo, bellissimo. Siamo andati con gli studenti a Capri, penso che io non l'avevo mai vista Capri. 30 anni di vita. Ma allora non l'hai mai vista, che gli spiegavi a questi poverini che venivano dal Tennessee, dal Montana? Si impara anche a come dire, documentarsi, studiare le cose, e poi noi arriviamo là. In realtà andiamo molto a sensazioni. Allora, sei andato a Capri con le sensazioni, che è successo? No, a Capri con le sensazioni, sì. E siamo stati là con tutto questo gruppo di ragazzi. Poi è bellissimo perché quando vai al sud, no? Tutte queste belle ragazze americane, bionde, così, ma quindi arrivi là e tutti quanti ti guardano come se fosse sbarcato chissà che cosa. Vabbè, mica che mancano le belle ragazze al sud adesso che devono arrivare le americane per farli attizzare, figurati, no, dai. Che te devo dire? Però ogni tanto la sensazione è quella, ma sempre molto simpatici comunque. Solo che poi le ragazze mi dicono, ma che cosa ha detto quel signore che rideva e guardava, e dico, oh, niente, non ha detto niente. A volte è meglio non tradurre. Per esperienza. Vabbè, che avranno mai detto, dai, su, cioè, mica ma siamo... che avranno mai detto? Avranno no, niente, fanno apprezzamenti così, poi magari fanno le domande e quelli non capiscono e continuano a parlare, ma per carità, sono molto simpatici. Andiamo avanti. Vabbè, niente, hai detto tutto, ho avuto un quadro completo, esaustivo, a meno che tu guarda, non abbia delle cose che cosa. Ti sei trattenuta. Sono stato molto soddisfatto di questo incontro, nel senso certo. che ho capito che sei contenta e felice, e questo già è un dato che mi conforta. Speravo che la tua vita fosse cambiata in maniera molto radicale, tu mi avessi detto finalmente un uomo, l'uomo della vita. Ah certo, perché la vita cambia in modo radicale se c'è un uomo dentro casa. La mia modesta esperienza di persona anziana mi ha portato a questa conclusione, che era stato una donna, questo sia l'ambizione massima, poi magari cambia idea, però avere una persona che si occupi di lei, no, quanti si arrabbieranno quando guarda, mi sentiranno, ti dico, cosa ti permetti, una cosa, una cosa però guarda, ti aiuto a finire questo incontro che meno si arrabbieranno sì. con te. Sto imparando e ho imparato a prendermi cura di me stessa. Quindi è come se ci avessi un rapporto tipo tra me e me, tipo a volte sono mia madre, a volte sono mio padre, insomma sono un po' bipolare. Cioè, sono quelle cose che te le ha dette qualche coach di quelli che si contattano online, o nel senso ti lavi di più, ti vai più dal parrucchiere, no. ti pitti le unghie, ti depili in maniera scultorea, cosa fai? Che vuol dire mi occupi di me stessa? Perché è una teoria, che vuol dire? No, non è una teoria, è anche una messa in pratica, perché quando tu comunque vivi da sola, comunque devi gestirti, no? Devi sia alle 6 del mattino devi partire con gli studenti. No, alle davvero, 6 pensa a cosa strana, pensavo che non accadesse visto? Così. Ora sai che c'è, che quando uno sa la testa. Ma devi anche così, pulirti la casa, devi lavarti i panni, capito? Cucinarti. Cioè, ho scoperto, mamma mia. No, quello lo facevo ma pensa già che prima. Mondo. Lo facevo già prima, però impari anche a guardare lo specchio e a dire, va bene, non ti arrabbiare se oggi non hai fatto esattamente quello che dovevi, lo farai domani. Un ma hai un maestro di vita che ti suggerisce queste cose o ti vengono spontanee? La vita è il maestro di tutti, caro Gianluca. Sì, vabbè, ho capito. Sei entrata in una setta. La vita è maestra di tutti. No, guarda, ma tu sei entrata in una setta. Ti costringo ogni giorno a dire adesso mi faccio delle autococcole, mi gratifico e ti guardi allo specchio. sì, dici... no, i maestri più belli sono stati in realtà anche i miei studenti, perché questi ragazzi che a 17 anni ti fanno una cosa retorica che tu non puoi sentire, però la verità, che vengono qua dall'altra parte del mondo, che non hanno mai fatto nulla da soli, e tutti vederli come sono indipendenti, così. Ma sai che mi ha detto una ragazza una cosa molto bella un giorno? Stavamo lì, no, che sai, poi tutti fanno fotografie, tutto piano, no? Sono tutti, fanno prima la foto e poi guardano. Una si è fermata un giorno e mi fa: guarda Giulia, sono proprio contenta perché al posto di fare queste 3.000 foto vorrei scattare una foto dei miei occhi mentre guardo queste meraviglie, perché sto imparando talmente tanto. Questo ti giuro Giulia, credimi, ho la pelle d'oca, veramente. Bella, lo so, è bellissimo. È quello che provo io quando me la userò adesso. Dico, ah. La prossima volta voglio far colpo su qualcuno, guarda, vorrei fotografare i miei occhi mentre ti guardo e vedrei l'infinito riflesso, qualcosa del genere. Ma non esagerare, era più bella. C'è una manualistica naturale, comunque, di marpioni seduttori online che usano queste frasi. Tuo padre ha rubato i tuoi occhi da quale lago alpino, queste cose qua, no, che oggi sono i manuali. No, non so di cosa tu stia parlando, io l'ho vista da una ragazza di 17 anni con le lacrime agli occhi, quindi mi attendo. Sì, ma da cos'è che la faccia piangere? No, voglio capire questa poverina perché piangesse. Cos'è che la faceva piangere? Hai mai pianto di gioia? No, manco di dolore, no. Onestamente. E no. Allora, guarda, nel frattempo io medito su quello che tu mi hai detto, perché nella mia esperienza di vecchietto, per avere, per essersi soddisfatti, bisogna avere un uomo, bisogna convivere. Tu intanto medita su questo, alla mia mi domanda. Mi alleno a piangere, va bene, la prossima volta che ci incontriamo, ti confesso che ho pianto, bella questa frase. Ma Giulia, di gioia. Ti confesso che ho pianto di gioia, guardando negli occhi mentre ti guardavano. E noi vicini di viaggio. Sì, ma se metto il telefono davanti agli occhi per fotografarli mentre ti guardo, guardano il display del telefono, mica guardano te, come faccio? Queste sono escapotage. Mi rimbecco. Fare un'inquadratura angolata. No, ti rimando la mia domanda e poi ti so dire se tu sarai sincero. Senti, mi dai l'indirizzo della setta, dai, così magari mi faccio condizionare un po' anch'io. Guarda, no. Ti dirò un'altra frase, credo che ormai sia troppo tardi. Finisce così. Credo che ormai sia troppo tardi. No, quando un maestro di vita non lo dice mai, credo che ormai sia troppo tardi, se no non può continuare. Può dirlo per far scatenare in te qualcosa. Chissà. Sì, così dici: no, ti prego maestro, non mi lasciare, ti pago il doppio della retta che mi chiedi ogni settimana per farmi distronzare. Oppure, come in un film che a una protagonista gli hanno detto, hai ma solo una settimana di vita, dopo morirai. Una settimana cosa vorrei fare? E lei va e rivoluziona tutta la sua vita. Devo prendere a calcio nel culo fino a che non mi si consumano le scarpe la persona che me lo dice. Tra le altre cose ha imparato anche a piangere di gioia. Comunque ti lascio così, adesso sarò io ad alzarmi per una volta e non tu. Vabbè. Buon viaggio, ciao, mi faccio sto piantarello di gioia. Ciao, buon viaggio. Ciao. Ciao, tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, boom, boom, boom, mei. Tu, anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni, mai più è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé, laggiù tra cani e porci, figli di un dio minore pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé. No, no, no, no, no, no, noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No, no, no, no, no, no, noi siamo gli ultimi della fila, siamo terre mai viste prima, solo noi. Ciao tu, freak della classe, femminuccia vestita con quegli strass, prova a fare il maschio, ti prego, insisto, fatti segno della croce, poi rinunci a Mefisto. Ehi tu, anima in rivolta, questa vita di te non si è mai accorta, colta di sorpresa, troppo colta, troppo assorta, quella gonna è corta, mai più è meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé. No, no, no, no, no, no, noi siamo angeli rotti a metà, siamo chiese aperte tarda sera, siamo noi. Ciao tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Oramai ho l'occhio clinico, l'occhio addestrato. Capisco immediatamente quando ho di fronte un viaggiatore per caso, quello che quasi vuole giustificarsi, si sente in colpa perché sta su un semplice treno che compie un tragitto tra due città dello stesso paese. Si guarda intorno con lo sguardo quasi di voler chiedere scusa e dire: ma guardate, soltanto per caso. È un'eccezione che io mi trovi in questo treno, perché a ben altri viaggi io sono abituato. tante esperienze diverse dai momenti attuali, ti sembra di essere sempre un po' di un'altra epoca. Ecco, qual è la cosa che ti fa più sentire fuori dal tempo in questo momento rispetto alla tua vita passata? Parlare linguaggi diversi. Spesso i ragazzi più giovani mi chiedono il perché di tante cose, mi chiedono cosa è successo in quel momento, cosa è stato quel momento storico, oppure anche delle parole che si è perso il significato. Anche la nostra storia più recente dell'Italia, no? Già gli anni 70 e 80 sembrano lontanissimi, è vero, in effetti lo sono per chi è nato in quegli anni o dopo. Per noi invece ci sembra tutto un filo continuo e spieghiamo il presente con quello che è successo nel passato e riusciamo a collegarlo. Adesso mi sembra che la gente faccia fatica a fare i collegamenti, a capire. In che senso? Cioè, parliamo di una cosa del passato che dà questo spaesamento rispetto al presente. Io sono di una generazione, mio padre era stato partigiano, quindi già lì andiamo nella preistoria, perché spesso non sanno neanche quando è stata la prima, la seconda guerra mondiale, cosa è successo. Poi non si sa che cosa è stata la vita dell'Italia quando si è dovuto ripartire, quando la gente risvoltava il cappotto per tirare avanti e al massimo c'era una lambretta per ogni famiglia. E poi anche le cose più recenti, cosa è successo negli anni di piombo, cosa è stata la storia dell'Italia. In televisione tutti i giorni, non so, si parla del caso Moro, si parla di Tangentopoli, si parla di avvenimenti anche più recenti e spesso invece la gente, non solo i giovani, anche quelli di una certa età, sembra che abbiano dimenticato, perso la memoria, non riescono a ricostruire. Quindi anche fatti più vicini a noi, che ci spiegano anche il presente, non ne hanno più gli strumenti, non c'è più una chiave interpretativa e una memoria collettiva delle cose, una consapevolezza. È come se le persone fossero tutte isolate ormai tra di loro, no? Un isolamento... Ecco, la tua esperienza di vita ti ha portato, sembra di capire, anche a vedere altri posti, altri paesi, per fare questo tipo di valutazione devi avere anche dei parametri differenti rispetto a quelli usuali del clima della nascita, della giovinezza, della cronaca che ti attraversa. Quando hai cominciato a viaggiare per il mondo? Se questo è. Diciamo che quando le cose in Italia hanno cominciato a cambiare, per cui non era più di moda l'impegno sociale, l'impegno politico, e quindi generazioni che magari avevamo vissuto gli anni 60, 70 con dell'impegno, con la voglia di trasformare un po' il paese in meglio, fondamentalmente, perché la spinta era quella, ho cominciato a guardarmi intorno, a vedere il resto del mondo, che cosa succedeva. E la cosa che mi ha colpito è che in paesi che noi consideravamo cosiddetto terzo mondo, in realtà c'era una spinta al cambiamento, molti giovani, molte idee nuove che stavano venendo, e l'America Latina per esempio negli anni 80 ha cominciato a uscire dalle dittature che c'erano in tutti i paesi, e lì si è creato un movimento a tantissimi livelli, dalla musica alla cultura, all'educazione, anche poi anche l'economia e la difesa dell'ambiente, per cui ho pensato che era giusto cominciare a imparare qualcosa da quei paesi, a conoscerli meglio. Quando è che sei partito per la prima volta? Quanti anni avevi? Dunque, non ero più tanto giovane, però diciamo che ho cominciato a interessarmi sull'Amazzonia alla fine degli anni 80. E quindi andavo già verso i 30 anni. Poi ci sono partito, passato, tornato varie volte. L'attività doveva essere sia qui che là per aiutare quei paesi. Per cui si trattava di cercare delle risorse qua, di dargli un punto di riferimento, un punto di arrivo per quello che loro cercavano di fare, per legarci tutti insieme. Cioè loro difendono la foresta, potrebbero anche non farlo e quindi tu sei partito, scusami, su una spinta fortemente ideale, ideologica, alla fine degli anni 80, voglio andare a dire com'è, ma cosa ti aveva spinto, cosa avevi visto, avevi sentito, cioè qual è stato lo spunto? Non è che tutti i giorni si sente parlare di Amazzonia, a meno che uno non ha interessi specifici. Ma sì, in effetti la spinta è stata ideale perché sono sempre stato attento a quello che succedeva negli altri paesi, nei paesi del terzo mondo specialmente, però anche per me è stata una scoperta capire che loro su certe cose erano addirittura più avanzati di noi. Cioè, per esempio, c'è un pedagogista che è Paolo Freire, che ha lavorato in America Latina, che ha insegnato delle cose anche noi. Io ho fatto per molti anni l'educatore in Italia. E quindi quando un mio professore dell'università ha cominciato ad andare in Amazzonia e c'è stato là 2 anni lavorando con Chico Mendes, che è stato l'eroe più importante per la difesa della foresta, ucciso poi dai squadroni della morte, e quando è tornato in Italia ci ha un po' attaccato a me e qualche altro compagno di università, ci ha un po' attaccato la passione per questo che succedeva in Amazzonia, che è una terra mitica anche nell'immaginario, no? Per cui parlare di Amazzonia subito ti apre degli scenari fantastici. E quindi da lì, da prima dall'interesse che avevo prima e poi da questa connessione che per caso si è creata, ho deciso di dedicarmi a questo impegno. E quindi già negli anni 80 ho cominciato a impegnarmi, ho cominciato a provare a imparare anche da loro quello che veramente... Vabbè, però raccontami il primo viaggio, perché non è proprio un impatto semplice partirsene da una città media italiana a trovarsi in Amazzonia. Qual era il tuo primo itinerario e cosa andavi a fare? La cosa strana è che quando vai là e conosci queste persone, ma un po' me l'aspettavo, ti senti quasi a casa, nel senso che i rapporti umani sono molto più stretti, sono molto più diretti. Ma chiaro, ci sono tanti problemi sociali, c'è l'alcolismo, ci sono tante cose, però... Ma tu dove eri andato? Esattamente dove eri andato? Che tipo di ambiente era? Che realtà era? Ho operato in 2 zone dell'Amazzonia contigue, che sono le più profonde, quelle più addentrate nel Brasile, che è la regione dell'Acre, dove viveva Chico Mendes, e la regione del Pando, che è confinante, che però fa parte della Bolivia. Quindi sono zone proprio veramente, specialmente quella boliviana, ancora più arretrata per certe cose, ma più intatta per quanto riguarda l'ambiente. Ma eri andato come turista o avevi un progetto? Seguivi un'idea? No, per un progetto. Abbiamo cominciato ad attivare tutta una serie di attenzioni da parte di varie ONG, o non so, per esempio anche di organismi religiosi, la Chiesa Valdese, l'Ordine dei Biologi Italiani, per cercare di, da una parte, difendere l'ambiente, che è la cosa che probabilmente a noi preme di più, visto che stiamo bene e vogliamo continuare a respirare l'aria, e dall'altra invece proprio per entrare in contatto con queste popolazioni e cercare con loro delle soluzioni. Anzi, ma tu come parlavi con loro? Come ti rapportavi? Cioè, descrivimi esattamente il tipo umano con cui entravi in contatto. Allora, là esiste un movimento in Amazzonia che riguarda decine di migliaia di persone, che è quello di difesa della foresta. Sono i cosiddetti seringueros, quelli che raccoglievano la gomma, il caucciù, che poi a un certo punto andò fuori mercato, e loro avevano capito che difendere la foresta utilizzandola nella loro tradizione poteva servire a conservarla e allo stesso tempo a dare una possibilità di sviluppo economico ed umano alle popolazioni, mentre invece di deforestare voleva dire che dopo pochi anni questi terreni si inaridiscono, iniziano le malattie tipo la malaria e la gente è costretta a emigrare nelle città dove poi gli aspetta un futuro devastante. Quindi ci davano una lezione di economia politica molto importante, cioè conserva le risorse di oggi per averle anche domani. Ed erano ma tu mi spieghi le condizioni in cui vivevi? Perché tutto quello che mi hai detto finora uno potrebbe averlo anche letto sul libro. Vorrei proprio capire da te l'impatto fisico, che tipo di vita facevi, con chi ti relazionavi. Allora, piano piano, tramite anche le ONG, siamo riusciti, e la nostra associazione, a costruire, diciamo, delle attività sul posto, dove nei centri, diciamo, urbanizzati avevamo strutture di accoglienza abbastanza comode, abbastanza gestibili, mentre invece nelle comunità della foresta era più un'avventura, perché magari, non so, io spesso mi muovevo con una piccola moto che andavo da una comunità all'altra, o con la jeep, o a volte in canoa, perché per 10 mesi all'anno le strade non sono praticabili. Nelle comunità dormivi nelle case di queste persone, sono case molto semplici, sono delle capanne senza il bagno, e qualche volta abbiamo dovuto dormire in mezzo alla foresta e per terra, cioè ti porti una zanzariera e cerchi di evitare i tarantoli, ma soprattutto le zanzare, che sono la cosa più fastidiosa. Poi la foresta di giorno è silenziosa, ma di notte è un supermercato, perché ci sono tutti gli animali che urlano, si svegliano, cantano, è una cosa stupenda di notte. E anche il cielo che c'è nella foresta dell'Amazzonia, non ci sono luci che disturbano, vedi tutte le costellazioni, vedi la Stella del Sud. I'm going to answer. Protected. It can be so hard to forgive. It's not what I thought, and it's not what I pictured when I was imagining my man. The time living the classics, I know they're imagining my man. Stay. avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Come ti relazionavi te con queste persone? Come ti vedevano loro? Era qualcuno, capivano che eri venuto a dare loro una mano? Sì, io ho trovato gente molto consapevole, per cui io non andavo mai con l'idea di essere l'europeo che arriva e che gli va a insegnare cosa deve essere lo sviluppo. Anzi, dicevo sempre, voi avete tutto il diritto di fare quello che volete dalla vostra foresta, non siamo noi che le abbiamo tagliate tutte a dirvi che cosa si deve fare. Per cui cercavo di imparare da loro e di ascoltare sempre con attenzione. Poi naturalmente portavo la mia esperienza, per esempio quella di educatore nelle scuole in Italia, per cui spesso un contatto molto importante era con quello con gli insegnanti delle comunità, che spesso erano ragazzi giovani abbandonati per un anno intero in mezzo alla foresta, con dei bambini sottonutriti, quindi con problemi anche di... E con questi ragazzi cominciavamo a fare, non so, degli orti scolastici, e poi si coinvolgevano le famiglie dei bambini, diventavano piano piano delle vere e proprie fattorie didattiche, e loro si riappropriavano della capacità di lavorare con la terra, di stare in comunione con la terra. Hai avuto mai dei momenti però difficili, di paura, di difficoltà? No, certo, c'erano problemi sia sociali, di comprensione, di tante cose, perché problemi là sono tanti, gente povera, quindi a volte ci sono degli abbandoni familiari, eccetera, ma ci sono anche delle fasce di popolazione che sono quelle, diciamo, più illegali. Ci sono i cosiddetti madereros, che sono i commercianti abusivi di legname che distruggono la foresta, fanno incendi che hanno 200 km di fronte nella stagione secca, quindi distruggono completamente. Ci sono gli allevatori di bestiame che sfruttano questi terreni riducendoli poi al deserto. Ci sono gli squadroni della morte che agiscono per conto di questi personaggi e che, quando c'è un tentativo delle popolazioni locali di organizzarsi, di fare questi empate, che sono andare ad affrontare i bulldozer che abusivamente buttano giù la foresta, loro si sdraiano davanti ai bulldozer e spesso ci rimettono la pelle. Cioè il bulldozer continua a camminare lo stesso, a volte, anche con a volte semplicemente gli sparano e li fanno secchi. Cioè abbiamo un elenco enorme di preti, suore, sindacalisti del posto, cioè quindi contadini, ecco, che sono stati uccisi. Noi stessi abbiamo avuto due attacchi alla nostra organizzazione. Una volta hanno ucciso 6 persone, tra cui anche 2 bambini, che trasportavano con i camion i materiali delle cooperative locali. E hanno ucciso anche i 2 bambini per non lasciare testimoni. Ma dopo 2 anni hanno addirittura attaccato la sede del sindacato dei contadini, la scuola elementare e la sede della cooperativa, e hanno ucciso 52 persone. Cioè è stato un vero e proprio massacro. Anche e tu ti sei mai sentito te in pericolo, proprio tu come persona, al di là, diciamo, delle persone che, di cui questo pericolo faccia parte del loro quotidiano? Tu hai mai avuto paura una volta? Diciamo che quando hai paura non hai tempo di capirlo. Cioè, sei un europeo, sai che un pochino più sei protetto, perché altrimenti per loro diventa controproducente, però è capitato che ero con una persona che era il vice di Chico Mendes, che era già stato ferito gravemente in un attentato, e a un certo punto ci siamo trovati circondati da una ventina di persone armate, che però è stato più una minaccia che un tentativo di farci fuori. Era stato un avvertimento. Io avevo una jeep dove c'era scritto su Comunità Europea. Questa cosa qui probabilmente per loro rappresentava un limite, mentre invece per la gente del posto non hanno riguardi, purtroppo. Hanno ucciso anche 2 insegnanti della scuola elementare, e quindi non vogliono assolutamente che la gente lì possa alzare la testa, e quindi i problemi sono stati tanti. Hai conosciuto anche altre zone del mondo, alla fine il tuo viaggio è seguitato o questo era, diciamo, il tuo terreno di lezione? Io per 25 anni mi sono impegnato su quel progetto lì. E 25 quindi, anni sono tanti? Sì, ma non sono stato continuativamente 25 anni, andavo e venivo, cioè anche perché poi dovevo lavorare. Perché vedi, il problema per queste popolazioni, l'ha detto una volta Youssou N'Dour quando è andato quando hanno fatto l'anniversario di USA for Africa, che hanno fatto concerti in tutto il mondo. Lui è andato sul palco e ha detto: tutto questo è molto bello, ma fondamentalmente noi chiediamo una cosa sola: apriteci il vostro mercato. Vogliamo aiutarli, dobbiamo anche da questa parte qui trovare uno sbocco a quello che loro fanno, cioè difendono la foresta, fanno dei prodotti. Ok, allora dobbiamo da questa parte tirare il filo e dargli la possibilità di farlo. Ci vogliono capitali, ci vuole rischio aziendale, cioè bisogna ragionare in un modo diverso da quello che è stato fino adesso l'elemosina, la cooperazione, dove ti portava. Anche noi abbiamo dovuto in certo senso a volte rieducare le persone di là, alcuni perché ti dicevano: quest'anno cosa mi hai portato? Come cosa ti ho portato? Si abituavano a ricevere gli aiuti, specialmente dall'Italia, che poi diventavano cose sprecate. Io ho visto dei capannoni della cooperazione italiana degli anni Ottanta pieni di trattori arrugginiti. Cioè, perché nessuno li sapeva guidare, come mai? Certo, perché magari gli mancava il badile, gli mancava il piccone. Prima devi partire dal badile, dalla zappa, per insegnare a un contadino a coltivare la terra. Portare là dei trattori su dei terreni che non erano adatti, persone che non li sapevano usare, che non avrebbero neanche saputo cosa farci, cosa produci, cosa fai, un allevamento o una coltivazione estensiva non ha senso. Cioè, ha più senso un'economia familiare, ha più senso aiutarli a crearsi un mercato locale piano piano. Cioè, quelle erano solo spese che venivano fatte dall'Italia, dove probabilmente qualcuno ci mangiava sopra, come è successo per esempio in Somalia, e allora il caso di Laura Alpi. Che sì, era un po' più gli anni in cui non c'era questa attenzione così capillare e generale sui fenomeni della cooperazione. Dietro questa parola sono compiuti abomini. Sono compiuti abomini, questo lo sappiamo tutti. Senti, adesso invece cosa fai? Ti è passata un po' questa smania di muoverti in territori difficili? Sei più diventato stanziale? No, rimane ancora la voglia di ripartire, però io ho messo su famiglia nel frattempo, faccio l'educatore, sto avviando anche dei progetti per esempio per gli anziani che sono soli in casa, magari ancora a un po' autosufficienti, però che hanno bisogno di contatti sociali, cioè c'è tante cose da fare anche qui da noi, però diciamo che l'attenzione ce l'ho sempre, perché a volte mi sembra quasi di avere un po' abbandonato quelle persone che magari si aspettano comunque di avere un riscontro da questa parte, di essere un loro punto comunque di contatto. Diciamo che è stato il tuo addestramento su un campo molto difficile, quello che hai fatto in Amazzonia, e adesso diciamo metti a tesoro tutto il lavoro di quegli anni occupandoti delle persone del tuo territorio. Mi sembra una ottima chiusura. Intanto ti saluto, ti auguro buon viaggio, continua sul treno, okay, che non sì, ti porterà certo tanto continuo. Lontano il a presto sempre. Ciao, arrivederci. Grazie, a presto, ciao, alla prossima, ciao. Oh, the sinking spell caught a tiny heel. Pinned a notice to posts and then crawled in my mouth. There is a feeling I love buried in my brow. Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.